fa a vivere senza rimorso per essere amato dalla società. Cerco di giorno e di notte di identificare la sua verità, ma dove mi giro, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, perché ha una gamba qua e l'altra gamba là. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Questo è il bambolotto di Jimmy lo Storpio. Se tiri la cordicella, fa il verso originale. Ma è tutto snodabile e puoi farlo ballare anche con Jenny la Troia. Con Jimmy lo Storpio tu potrai ballare. Con Jimmy lo Storpio tu potrai cantare. Con Jimmy lo Storpio ti faremo sognare. Con Jimmy lo Storpio, con Jimmy lo Storpio. Mentre tutti lo amano e tutti lo vogliono avere qua, io mi domando imperterrito come si muove quest'umanità. Se solo per essere amato fingesse problemi che invece non ha, sarebbe la prova evidente che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Perché ha una gamba qua e l'altra gamba là. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Iscriviti anche tu alla pagina Facebook di Jimmy lo Storpio e segui da vicino la vita privata del tuo idolo. Ogni giorno aggiornamenti e news per farti sentire un uomo migliore. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Con Jimmy lo Storpio tu potrai ballare. Con Jimmy lo Storpio tu potrai cantare. Con Jimmy lo Storpio ti faremo sognare. Con Jimmy lo Storpio, con Jimmy lo Storpio. Dentro questa canzone ci sono più tematiche che in Forrest Gump, ma l'unica cosa che pensano è: c'è qualcosa che non va.